Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Movimento 5 Stelle, il quotidiano spagnolo ABC attacca, ricevette 3 milioni e mezzo di euro dal Venezuela, Crimi replica, è una fake news. Oggi agli Stati Generali il piano Colao, per Conte si tratta di un apporto importante, all'evento anche i sindacati, Furlan, Radio 24, occasione da non perdere. Fase 3, da oggi nuove riaperture dai centri estivi ai cinema, in Lombardia intanto il 70% dei 338 nuovi casi registrati ieri. Caso Sherry, la verità 20 anni dopo, chiuse le indagini, 5 indagati per la morte del giovane Parà alla caserma di Pisa. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Fanno discutere le rivelazioni o presunte tale del quotidiano spagnolo ABC su un finanziamento illecito da 3 milioni e mezzo di euro al Movimento 5 Stelle da parte del Venezuela di Chavez nel 2010. Il reggente Crimi bolla queste notizie come fake news. Ne parleremo tra un attimo, perché nel frattempo sono ripresi i lavori oggi degli Stati Generali dell'Economia. È toccato a Vittorio Colao presentare il lavoro della sua task force con le proposte per il rilancio dell'economia, in agenda anche l'intervento dei sindacati. Allora ci colleghiamo con Giorgio Stamatopoulos, buongiorno. Buongiorno Alessio, da oggi gli Stati Generali si può dire che entrano nel vivo, come ricordavi da studio, non solo per l'intervento questa mattina di Colao, che ha presentato il progetto elaborato col suo gruppo di lavoro e che Conte ha ringraziato parlando di un contributo importante di ampio respiro, ma soprattutto perché è cominciato il confronto con le parti sociali sul piano messo a punto da Palazzo Chigi per il rilancio del sistema paese, un piano come sapete ambizioso, articolato in 9 punti, dal digitale alla green economy, che Conte vorrebbe portare a Bruxelles nella sua versione definitiva entro settembre per accedere ai recovery fund. Vedremo cosa uscirà dall'incontro con CGIL e CISL e UIL cominciato poco fa e ai quali il Premier tra l'altro ha annunciato l'intenzione di voler superare l'attuale CIG per approdare a una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Ma prima di restituirti la linea vale la pena ricordare che l'accesso ai fondi europei, compreso il MES, per i sindacati rimane un obiettivo essenziale perché questi Stati Generali non siano un'occasione sprecata, come ha sottolineato questa mattina ai nostri microfoni proprio la leader della CISL, Anna Maria Furlan. È un'occasione da non perdere. Io mi auguro che davvero emergano le questioni vere da affrontare nel nostro paese. Noi abbiamo bisogno di un piano complessivo che parte da un presupposto che è un presupposto positivo. Attraverso l'Europa avremo davvero tante risorse da poter investire nel paese, non va sprecato nemmeno un euro. E a proposito di sindacati, di lavoro e di risorse da investire, altre 4 settimane di cassa integrazione dovrebbero arrivare già oggi con un provvedimento del governo nel Consiglio dei Ministri, lo ha detto lo stesso Conte proprio agli Stati Generali in corso, come avete sentito poco fa. E poi ci sono anche i dati dell'Istat sulla cassa integrazione. Bene, dall'inizio della crisi a farne ricorso sarebbero state, secondo l'Istat, oltre il 70% delle aziende italiane. Ma dicevamo, la maggioranza di governo deve fare i conti, oltre che con le fibrillazioni aperte ieri dalle dichiarazioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato romano, che godrebbe ancora di sostegni nel movimento che ha messo una ipoteca sul futuro di Conte. Ci sono soprattutto oggi le rivelazioni del quotidiano spagnolo ABC, che parla di un finanziamento da 3,5 milioni al Movimento 5 Stelle nel 2010. Il governo del Venezuela avrebbe finanziato con 3 milioni e mezzo di euro il neonato Movimento 5 Stelle nel 2010, secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano spagnolo ABC, che ha pubblicato in esclusiva un documento della Direzione di Intelligenza Militare del Venezuela, all'epoca dei fatti facente capo all'attuale presidente venezuelano Maduro. Lo scoop del quotidiano spagnolo di tradizione conservatrice rivela che il denaro sarebbe stato inviato al consolato venezuelano di Milano nascosto in una valigia diplomatica, per essere poi girato a Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a Beppe Grillo. Stando al contenuto del documento dell'intelligenza militare venezuelana, lo stesso Casaleggio viene definito come promotore di un movimento rivoluzionario di sinistra ed anticapitalista nella Repubblica Italiana. A garantire la somma di denaro per finanziare i 5 Stelle sarebbe stato un fondo gestito dall'attuale viceministro dell'economia Tarek El Aissami, accusato lo scorso anno dalla giustizia statunitense dei reati di narcotraffico e riciclaggio di denaro. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. Le rivelazioni arrivate dalla Spagna sono un nuovo terremoto per il Movimento 5 Stelle, già scosso dallo scontro fra Grillo e Di Battista. Il reggente Crimi parla di ridicole fake news, mentre Davide Casaleggio annuncia querele. Dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza, si moltiplicano però le richieste di chiarezza. Ad intervenire sui presunti fondi dal Venezuela è anche il Democratico del Rio, ospite di 24 Mattino. Non voglio commentare questioni e indiscrezioni giornalistiche di cui non abbiamo contezza della veridicità, quindi ripeto, cerchiamo di fare insieme il bene di questo paese, ogni partito ha le sue dinamiche, i suoi rapporti, le sue relazioni. A preoccupare gli alleati di governo è anche la tenuta del movimento, a rischio scissione dopo lo scontro fra Grillo e Di Battista. Quest'ultimo ieri è tornato a chiedere un congresso, una proposta subito stroncata dall'ex comico. Ribadisco le mie posizioni e lotterò per questo, insiste però Di Battista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parole rassicuranti quelle pronunciate poco fa dal vice ministro della salute Pierpaolo Sileri. Torniamo finalmente a respirare, ha detto, la situazione va meglio anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci, dunque le misure rispettate dal distanziamento al lavaggio delle mani. Tuttavia, ha aggiunto Sileri, serve un monitoraggio attento. 338 i nuovi casi ieri, il 70% dei quali in Lombardia. Oggi in Lombardia, in particolare a Bergamo, prende il via il test a tappeto della popolazione avviato dal comune. Resta stabile il dato dei contagi da coronavirus in Italia, altri 338 casi, il 72% dei quali in Lombardia. 44 i decessi, ma il dato è in diminuzione, e nella città più colpita dall'epidemia, Bergamo, parte oggi pomeriggio una campagna di 50.000 test sierologici gratuiti sulla popolazione in età lavorativa. Un'iniziativa del comune di Bergamo per monitorare la situazione del virus in città. L'eventuale tampone di verifica sarà anch'esso gratuito, e i tempi sono programmati in modo da limitare a pochi giorni l'eventuale isolamento volontario in caso di positività al test. Christoph Sanchez, capo di gabinetto del sindaco Giorgio Gori, responsabile della campagna. Ci aspettiamo che il numero di positivi, una volta effettuato il tampone, sia decisamente basso, e quindi vogliamo restituire un'immagine della città, diciamo, guarita, e vogliamo anche provarlo, insomma, con dei numeri. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riprende invece la preoccupazione per il coronavirus in Cina, dove a causa di una serie di nuovi casi 10 aree residenziali di Pechino sono state messe in quarantena. E allarme in Cina per il timore di una nuova ondata di Covid-19. Altri 10 quartieri di Pechino sono stati messi in quarantena dopo che la capitale cinese ha registrato 36 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, rilevati in un mercato cittadino all'ingrosso nel distretto di Haidian. Già la scorsa settimana era stato chiuso il mercato di prodotti freschi di Xinfadi, il più grande di Pechino e di tutta l'Asia, da cui transita circa l'80% dei generi alimentari destinati alla capitale cinese, in uno spazio che ha una superficie pari a 157 campi da calcio. Ancora un focolaio di Covid-19 in un mercato, dunque. La vicepremier cinese Sun Chunlan ha chiesto di fare un tracciamento per identificare la fonte dell'infezione e prevenire una recrudescenza dell'epidemia, e di fare più sforzi per evitare di importare casi dall'estero. Entrambi i mercati interessati sono stati subito chiusi per consentire la sanificazione. A tutti i lavoratori sono stati fatti tamponi a tappeto e numerosi controlli della polizia, e lockdown immediato per gli abitanti dei quartieri vicini. Per il focolaio al mercato di Xinfadi è stata inoltre aperta un'indagine e alcuni funzionari sono già stati rimossi dall'incarico per inadempienza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E piano piano invece all'interno dell'Europa si allentano tutte le misure restrittive nei confronti dello spostamento delle persone. Ultimo a cadere il divieto posto dal governo tedesco, adesso è stato eliminato l'allerta sui viaggi per ben 27 paesi europei, Italia inclusa. Sentiamo. In Europa le frontiere erette per la pandemia cadono quasi ovunque e nei 25 scali italiani autorizzati ad operare dal Ministero dei Trasporti si torna a volare anche con aerei a pieno carico. L'obbligo della distanza minima di un metro tra i passeggeri infatti non c'è più. I filtri di bordo consentono la sanificazione dell'aria ogni 3 minuti, condizione ritenuta sufficiente per abolire la prescrizione. Oggi al Terminal 1 di Malpensa circa 150 voli, 120 quelli programmati a Fiumicino. Ivan Bassato, direttore operazioni aeroporti di Roma. Pensiamo oggi a Fiumicino di avere più di 10.000 passeggeri, è ancora un livello molto basso rispetto a quello che succedeva l'anno scorso di questi tempi, perché Fiumicino poteva arrivare anche a superare la soglia di 150.000 passeggeri al giorno, ma certo procediamo nella direzione giusta. Si torna a volare per lavoro e per turismo e a questo proposito dalla Germania la notizia che il governo tedesco ha eliminato l'allerta sui viaggi per 27 paesi europei, tra cui Italia e Francia. Si tratta di un atto che di fatto riapre i flussi turistici con gran parte dell'Europa, escluse al momento ancora Spagna, Finlandia e Norvegia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un ex ufficiale in congedo della Folgore, il quinto indagato nell'inchiesta della Procura di Pisa per la morte di Emanuele Scieri, il giovane siracusano deceduto alla caserma Gamerra di Pisa, sede del centro addestramento dei paracadutisti, il 13 agosto del 1999. L'ex militare sarebbe accusato di favoreggiamento dalla magistratura pisana, assieme ad altri 3 indagati, accusati di omicidio, avrebbe creato una tesi difensiva preconfezionata in vista delle indagini. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. E a proposito di fase 3 che scatta effettivamente da oggi nel nostro paese, tra le riaperture c'è quella degli spettacoli con limiti massimo di pubblico, come sappiamo, teatro e cinema. Sentiamo. Sono circa un centinaio su 4.000 le sale cinematografiche che oggi riapriranno in tutta Italia dopo 3 mesi e mezzo di blocco per l'emergenza coronavirus. Una ripartenza lenta che però gradualmente si estenderà anche alle altre sale dopo che le condizioni per la riapertura sono state rese meno complicate. Il distanziamento sarà garantito dall'intervallo di 2 poltrone vuote per ogni poltrona occupata, ma i nuclei familiari potranno stare insieme. Non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante la proiezione, ma rimarrà necessario nella fase di accesso alla sala. Via libera anche i punti di ristoro e quindi al consumo di popcorn e affini in sala, capienza massima proporzionale a quella totale del cinema, anche oltre i 200 posti se, ad esempio, ci sono molti nuclei familiari. Ma come detto, la riapertura avviene a rilento. A Roma, ad esempio, parte solo l'UCI Porta di Roma e con un numero limitato di sale. A Milano riaprono l'UCI Bicocca e il Beltrade, mentre il Polo Anteo per il momento riparte solo dagli schermi all'aperto. Resta chiuso il centralissimo Odeon. I film? Per il momento quelli usciti tra marzo e aprile sulle piattaforme digitali e quelli rimasti schiacciati dal lockdown come Sonic o Birds of Prey, oppure i film più apprezzati della stagione come Joker e Parasite, entrambi premiati con l'Oscar. Franco D'Assisti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Come anticipato, ripartiremo dalla verità sul caso Scieri 20 anni dopo la morte del giovane parasiciliano alla caserma di Pisa, e poi il caos per la riapertura delle scuole, non ancora di fatto ufficialmente annunciate, già sorto un problema perché le regioni, nelle quali sono 6, dal Veneto alla Puglia, alla Toscana, alla Campania, dove si vota per le elezioni amministrative, chiedono di anticipare questo voto, altrimenti la riapertura delle scuole rischia di essere solo un fantasma per dover poi evaporare di nuovo, chiudere e riaprire verso la fine di settembre. Uno scenario agghiacciante per chi aspetta ormai da mesi di tornare nelle aule scolastiche. Tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, 1.000 risorse. perfetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il Movimento 5 Stelle ricevette 3 milioni e mezzo di euro dal Venezuela, rivela Abessema, per crimi e una fake news. La seconda ondata non dovrebbe esserci, così il viceministro Sileri. Fase 3, da oggi riaprono centri estivi e cinema, oggi agli Stati Generali il piano Colao. Caso Scieri, chiusa l'indagine della procura con 5 indagati, la svolta a 20 anni dalla morte del para siciliano a Pisa. Scuola, la riapertura il 14 settembre, contestata dalle regioni dove si vota per le amministrative, così non ha senso. Dovremo posticipare, ne parliamo tra poco. E allora alle 13:18 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno e, come anticipato dai titoli, parliamo di scuola e ne parliamo con l'assessore all'istruzione della regione Toscana, Cristina Grieco. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è anche la coordinatrice della Commissione Istruzione alla Conferenza delle Regioni. Allora, come se non bastasse il fatto che la scuola arriva per ultima in questa ripartenza, lo abbiamo detto tante volte, insomma, con grande anche insoddisfazione e dolore anche per... basta fare un confronto con la Francia, dove dal 22 giugno, anche se solo per due settimane, le scuole riapriranno in maniera obbligatoria per tutti. Noi abbiamo una data, che è quella del 14 settembre, che però va a cozzare con la data fissata per le elezioni amministrative regionali in ben 6 regioni: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. In queste regioni, anche nella vostra, insomma, i governatori contestano che si possa aprire la scuola per 3 giorni e poi doverla di nuovo chiudere. Però, ecco, appunto, ci dice, assessore, qual è lo stato dell'arte? Perché speriamo che, insomma, queste decisioni possano ancora essere modificate, per esempio anticipando la data per le elezioni o trovando un'altra soluzione. Esatto, questa sarebbe la soluzione migliore, cioè trovare una data meno in conflitto con l'inizio dell'anno scolastico. Però guardi, io sono assessore in Toscana e la mia è una delle regioni che vanno al voto. Quello che è la nostra posizione è che non, la scuola non può venire dopo anche questa volta, cioè non può essere la variabile dipendente da tutta un'altra serie di variabili. Quindi dopo tanti mesi di chiusura, ovviamente prima di metà mese non sarebbe realisticamente possibile aprire, perché c'è tutto un anno da organizzare, i docenti arrivano il primo di settembre, una macchina da mettere in moto, e quest'anno sarà ancora più complicato. Però di solito la scuola apre a metà mese, a metà settembre, e sinceramente questi devono essere i tempi, perché non si può anche qui andare a dire apriamo dopo perché ci sono altri appuntamenti. Saranno le altre cose a doversi, almeno una volta come messaggio, a doversi in qualche modo subordinare alla scuola. Perché, cioè, lei, insomma, quello se lo sta dicendo, perché poi mi sembra che questa sia anche la posizione espressa da tutte le regioni, chiedete in sostanza di anticipare questo 20 settembre, la data del voto. Esatto, questo sarebbe la soluzione migliore. A quando? Avete un'idea? Questo non lo so, nemmeno la fattibilità. Perché noi chiedevamo appunto anche la settimana precedente, quindi per poter partire poi magari il 15 in tutta Italia. Però se questo non è possibile, ecco, io non trovo giusto dire vabbè, allora posticipiamo ancora di 8-9 giorni l'inizio, l'inizio delle attività didattiche, perché sarebbe davvero un messaggio sbagliato. L'ha ricordato lei prima, la scuola è venuta dopo tutto, cioè è ripartito un paese come se la scuola non ci fosse. Noi questa cosa l'abbiamo sofferta molto, almeno una persona di scuola, diciamo. Sì. E almeno questa volta, ecco, questa deve essere una certezza, almeno nei tempi ordinari la scuola deve ripartire. Sarebbe uno scandalo però provare a iniziare prima la scuola. Ora, la posizione vostra mi sembra chiara e devo dire personalmente anche condivisibile, cioè provare a votare prima in modo da non creare questo problema di intreccio di date con la scuola. Ma nel caso non fosse possibile anticipare questa data del voto, anticipare il ritorno a scuola dopo mesi di assenza, dice c'è tutto da organizzare, però c'è anche stato tanto tempo per organizzare. Tra pochi giorni in Francia tutti torneranno a scuola e il virus è circolato anche in Francia. Sì, questo è indubbio, ma in Francia troveranno a scuola come coda dell'anno scolastico in corso, diciamo, quindi come ultima parte dell'anno scolastico in corso. Chi conosce la scuola sa che le prime settimane di settembre, da noi, proprio per per le tempistiche anche della mobilità dei docenti, arrivano, cioè c'è da fare tutta la fase di programmazione che non è possibile anticipare, proprio perché non c'è un collegio docenti nella scuola ancora stabilito, e quest'anno poi ci saranno ovviamente anche più difficoltà, quindi mettere in moto la macchina prima di metà mese è irrealizzabile dal punto di vista sostanziale. Però ripeto, almeno nel momento ordinario bisogna far partire, questo è un messaggio importante, bisogna che i ragazzi ritornino in presenza e in sicurezza nelle loro scuole. Ecco, mi dà una se, come se fosse una quotazione, la possibilità che il governo effettivamente cambi questa data del voto? C'è un'interlocuzione ancora in atto o come dire, siamo agli sgoccioli? Una data ufficiale non c'è ancora, credo che però nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni verrà determinata, ma anche dovesse essere il 20, la mia opinione personale è che comunque il messaggio di apertura nella prima settimana ci deve essere, perché sarebbe, a mio modo di vedere, sarebbe davvero grave e anche inaccettabile per le famiglie andare addirittura al 23 di settembre, quindi una data anche che insomma, va bene, da tanti anni non usiamo più, ecco, quindi ripeto, almeno la normalità nell'inizio delle attività didattiche dopo questo anno così travagliato ci deve essere. Grazie Assessore Greco, grazie. E ricordo solamente in chiusura che le regioni interessate da questa questione sono il Veneto, la Liguria, la Toscana, le Marche, la Campania e la Puglia. Per tutti gli altri la riapertura il 14 settembre della scuola non crea nessun problema, speriamo bene che almeno in queste regioni vada tutto liscio. In queste regioni qua invece c'è da risolvere il problema dell'intreccio con la data per ora fissata dal governo per il 20 settembre delle elezioni regionali, che non lascia molto spazio all'interpretazione e ai dubbi. Bisogna praticamente aprire per 2 o 3 giorni, poi chiudere con tutte le procedure complicate che ci saranno almeno per 7, 8, 9, forse 10 giorni, e quindi se ne riparlerà alla fine di settembre. Allora, adesso invece, come anticipato nel sommario, parliamo di questa notizia di cronaca che arriva da Pisa ed è forse la chiusura di un cerchio lungo, ampio, che viene dalla morte del giovane paracadutista siciliano alla caserma Gamerra di Pisa. Lui si chiamava Emanuele Sceri, nel 1999. La novità di oggi sono alcune, le ha esposte il pubblico ministero di Pisa, Crimi. Ne parliamo con Carlo Baroni, giornalista della Nazione di Pisa. Ciao Carlo. Buongiorno, grazie. Benvenuto. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Allora, tu hai seguito questa vicenda da molto tempo e intanto Io vorrei chiederti, diciamo, in quale fase del processo, perché questa è una lunghissima vicenda, no? Che risale a 21 anni fa, adesso in che fase stiamo? Poi parliamo delle novità annunciate oggi. Beh, qui stiamo nella chiusura delle indagini da parte della Procura Ordinaria di Pisa, quelle indagini che la Procura ha riaperto sulla spinta delle risultanze della Commissione Parlamentare d'Inchiesta. Ok, quali sono, perché ci sono delle novità e anche delle conferme. La novità mi sembra anche il nome di un quinto indagato. Sì, c'è un quinto indagato, sì, per favoreggiamento. Che sarebbe? Per favoreggiamento. Sarebbe l'aiutante maggiore del quale è stata trovata traccia di una telefonata a casa Panella, quindi a casa di uno dei tre accusati, ex commilitoni di Sceri, accusati di omicidio volontario, un'ora dopo il ritrovamento del cadavere di Emanuele il 16 agosto 1999. Telefonata che sarebbe servita per creare una tesi comune preconfezionata in vista poi delle indagini, questo è, mi sembra di capire. C'è questa telefonata di 4 minuti sì. che la procura ha ritenuto meritevole di approfondimenti. Ecco, diciamo, si sono limitati a questo. Ovviamente il contenuto della telefonata non c'è, c'è solo la traccia reperita nei registri della caserma Gamerra, che a questa indagine della procura di Pisa ha fornito una particolare collaborazione, che è stata sottolineata anche dal procuratore capo Alessandro Crini. Ecco, Carlo Baroni, qual è la anche in base a quello che le novità che sono state in qualche modo, con novità e conferme espresse oggi dal PM Crimi, sì. la dinamica di quello che sarebbe successo ad oggi, sì. tutto questo ci riporta, ricordiamolo, a un clima particolare che era quello della leva obbligatoria, l'incubo del nonnismo che vigeva certo, in tantissime certo. caserme militari italiane. Cosa sarebbe successo? Ecco, secondo la ricostruzione della procura, all'esito della consulenza affidata alla professoressa Cattaneo dopo la riesumazione del corpo di Emanuele Sceri, è stato accertato che la morte di Emanuele fu istantanea, non ci fu agonia. A questi punti, da questa risultanza, loro sono partiti a rielaborare quello che era stato il primo capo di imputazione provvisorio ipotizzato all'inizio delle indagini, e sarebbe successo questo: Emanuele fu sorpreso dai nonni, da questo terzetto costituito da Alessandro Panella, Luigi Zavara e Andrea Antico, sarebbe stato percosso con atti di prevaricazione, un classico atto di nonnismo di forte violenza. A quel punto Emanuele cercò la salvezza scalando da solo la famosa torre di asciugatura, scalandola dall'esterno, considerando che aveva nel marsupio il cellulare e che quindi magari una volta messosi in salvo dai nonni avrebbe potuto in qualche modo chiedere aiuto. Ma Panella, quello che è indicato come il più violento dei tre, lo avrebbe raggiunto entrando nella torre dall'interno e con un corpo contundente, visto che la scena è avvenuta in una discarica, quindi, dice il procuratore, facilmente reperibile, lo avrebbe prima colpito ad un piede, poi lo avrebbe colpito alle mani, causandone volontariamente la caduta. E va bene, Carlo Baroni della Nazione, grazie. Noi ci fermiamo qua, staremo a vedere poi quale saranno le conferme, perché qui si tratta della chiusura delle indagini di questa storia, tragica storia, ma che rivela anche una cattiveria veramente incredibile. Ripeto, il clima è quello anche se i parà non erano coscritti tecnicamente, ma siamo in epoca di leva militare, siamo in epoca in cui alle spalle c'erano gli anni bui del nonnismo in tante tante caserme, e questa storia rivela appunto anche l'accanimento col quale tre commilitoni si sarebbero, usiamo il condizionale, accaniti nei confronti di Emanuele Sceri. 13:30, torniamo tra poco con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. 13:36, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Come ultima ora, le dichiarazioni rassicuranti del vice ministro della salute Pierpaolo Sileri: non dovrebbe esserci una seconda ondata, ha detto anche dopo le riaperture. La paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci. E ora andiamo dritti al punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. La parola digitale la sentirete pronunciare per tutta la settimana. È la vera password degli Stati Generali. Il governo Conte punta tutto su un'Italia più connessa e più smart. Va detto però che è da tempo che si parla di digitale. Esiste ad esempio il COBUL, il Comitato Interministeriale per la Banda Ultralarga, che doveva creare le condizioni per connettere tutti i comuni della penisola. Intanto abbiamo saputo che il bando da 1,1 miliardi per aumentare la connessione delle zone grigie, dove oggi esiste solo un operatore e dove c'è la maggiore densità manifatturiera, è slittato di un anno. E così i ritardi rispetto alle previsioni salgono a 3 anni. Per i 7.700 comuni, cioè la stragrande maggioranza, coinvolti nelle cosiddette aree bianche, dove non ci sono operatori e vanno connessi da zero, è già stato messo in conto un altro ritardo fino al 2022. Nel 2018 venne lanciato con la consueta pompa magna il cosiddetto Call for Experts, e il Ministero dello Sviluppo Economico lanciava la stagione dell'intelligenza artificiale e delle blockchain. Sembrava tutto fatto, come quando abbiamo sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza. Poi però gli Stati Generali oggi ci stanno dicendo che è tutto da rifare.